Voci d'impresa. Vite e storie dietro l'azienda. Filippo De Cecco. Un secolo di pasta. Di Anna Marino. Benvenuti a Voci d'impresa. Parliamo con il cavaliere del lavoro Filippo De Cecco, titolare dell'omonima azienda che da 120 anni produce pasta e non solo. Gli abbiamo chiesto qual è il suo rapporto, la sua relazione, com'è che consuma il piatto tipico italiano. Noi quando eravamo a tavola con i nostri genitori, mio padre eccetera eccetera, questo ricordo fin da bambino. Quando ci trovavamo di fronte a un piatto di pasta non era un momento per soddisfare il gusto, la fame o d'altro, ma era soltanto un momento di riflessione e di studio sulla qualità del prodotto, perché mio padre cominciava questa pasta di qua, questa pasta di là, e questa pasta oggi è meglio di quella di ieri, questo formato è uscito bene, cioè esaltava i pregi o i difetti della pasta, questo che si mangiava quotidianamente, ecco, cioè anche noi la pasta la mangiamo quotidianamente, e quindi questo è il ricordo che ho da ragazzo, diciamo che mio padre ci faceva scuola di cucina, noi eravamo quattro figli, due maschi e due donne, e praticamente era tutti i giorni una scuola sul prodotto, su come doveva essere, quando era buono e quando era meno buono, e quindi diciamo che il ricordo che io della pasta è fondamentalmente questo, una scuola continua. Quindi voi avete imparato a tavola la qualità della pasta giorno per giorno? Esattamente, esattamente, è perché poi quando una pasta, secondo gli insegnamenti di nostro padre, era una pasta qualitativa, e allora venivano giù le spiegazioni, è perché questo grano è meglio di quell'altro, è perché l'impasto è stato fatto in questo modo, è perché la trafila è ruvida, è perché l'essiccazione è lenta, e oggi fanno parte della nostra cultura e del nostro DNA. Ecco. Come ci si sente a essere i produttori di un piatto così tipico in Italia? Ma guardi, noi siamo sempre stati, diciamo, uso una parola un po' forte, però siamo stati molto orgogliosi e siamo tuttora del nostro prodotto, perché per noi la qualità è stata sempre l'elemento determinante nelle nostre scelte aziendali. Cioè noi siamo forse meno bravi per quanto riguarda la finanza, la parte commerciale, però come tecnologici possiamo definire tra i migliori in Italia e nel mondo, perché abbiamo, dall'insegnamento dei nostri genitori, abbiamo sempre poi proseguito su questa strada, perciò per noi il lavoro è la ricerca continua della qualità, fondamentale poi del nostro successo. Io dico sempre, anche quando mi rivolgo ai De Cecco più giovani, mai essere tentati da una qualità inferiore, perché è poco la differenza tra una pasta di qualità e una pasta, diciamo, di alta qualità, una pasta di qualità media, non c'è questo abisso, che oggi le paste sono tutte di buona qualità, però c'è qualcosa che l'intenditore certamente riconosce. E possiamo dire che è vero quello che diciamo, perché fondamentalmente alcuni valori, se oggi ancora rimangono, oggi si parla di trafila ruvida, si parla di essiccazione a bassa temperatura, essiccazione lenta, eccetera, eccetera. Sono tutti valori che, se ancora oggi rimangono nel nostro settore, rimangono anche grazie a noi, che li portiamo avanti. Da 120 anni non abbiamo cambiato niente. Queste sono le tradizioni di famiglia, i messaggi, i ricordi. Come diceva lei, oltre 100 anni fa in Abruzzo aveva origine una storia che è fatta di uomini e di ricordi, ed è la storia del Molino del Pastificio dei Fratelli De Cecco, che da 120 anni produce la pasta. È una storia di cui vogliamo chiedere a lei se può darci alcune fotografie, alcune immagini, se può ricordare alcuni passaggi della storia che lei ha visto, vissuto e respirato in famiglia. Tutti parlavano di Filippo De Cecco come un genialoide, perché lui inventò il sistema di essiccazione della pasta. Praticamente una volta la pasta si essiccava al sole, e lui inventò nel 1889, inventò e brevettò il primo sistema di essiccazione artificiale è la pasta che da allora non si è essiccata più al sole, ma si essiccava queste cabine statiche dove lui metteva dell'aria calda, inventata da lui, questo lo dice l'enciclopedia Treccani, era un genialoide, uno che piaceva molto, oltre che la pasta, la meccanica, tant'è che da allora creò delle centrali idroelettriche qui a Fara San Martino, che ancora oggi noi usufruiamo per i nostri consumi. Era uno che amava la pasta, ma amava anche la meccanica. Nelle foto ci sono anche delle donne di famiglia. Hanno partecipato all'azienda? Le donne no. Sono state di supporto in un paese come Fara San Martino. Si sono interessate di tante cose, dell'asilo, delle scuole. Diciamo che hanno svolto più una funzione sociale, ma nell'azienda no. Ecco, il suo passaggio generazionale ha creato una nuova fase in azienda di espansione con questa unità appunto produttiva di Fara San Martino e poi una nuova rete di vendite. Ecco, ogni generazione ha portato un cambiamento, un ampliamento, però nel segno della tradizione. Sempre nel segno della tradizione per quanto riguarda i sistemi produttivi e tutto ciò che concerne la produzione. Per quanto riguarda la funzione commerciale, il 1976 è stato, diciamo, un po' l'anno della svolta, perché siamo passati da una rete di concessionari a una rete diretta di vendita con dei nostri funzionari di vendita, e quindi da lì abbiamo iniziato una nuova storia della De Cecco, è iniziato il rapporto diretto. Questo ha significato maggiore sviluppo, maggiore vendita, maggiore penetrazione in tutte le catene di supermercati che allora cominciavano a nascere. Come si fa a fare innovazione in un campo come quello appunto della pasta, del grano? Ecco, l'innovazione non è sempre, quando si parla di innovazione, non è sempre soltanto innovazione di prodotto o innovazione di... Innovazione consiste nella formazione giornaliera delle persone, cioè la competenza e la passione portano ad innovare giornalmente il prodotto perché lo migliora. Poi dal prodotto si passa alle altre funzioni, cioè la passione che c'è per il prodotto si estende un po' a tutto il mondo aziendale, quindi l'innovazione per noi è più che innovazione di prodotto, qua è innovazione di sistema, quindi migliorare le tecniche non produttive, perché quelle siamo arrivati, diciamo, poco migliorabili. Però le innovazioni si fanno nel campo commerciale, si fanno nel marketing, parla di mondo globalizzato, i supermercati che diventano globali, quindi si ha a che fare con un interlocutore che non è più quello di una volta, ma l'interlocutore cambia, quindi bisogna adeguarsi. Allora, l'innovazione è andare dietro a quelli che sono i cambiamenti giornalieri, il mondo cambia giornalmente. Lasciamo perdere i grandi eventi tipo la recessione che c'è stata ed è ancora in atto, che cambia sicuramente il modo di vedere in tutti i settori della vita, quindi anche sotto gli aspetti produttivi, eccetera, eccetera. Il modo di ragionare non è più quello del 2006, il 2007, il 2008 sicuramente resteranno nella storia come due momenti per cui tutti dobbiamo confrontarci con una situazione che non immaginavamo neanche due anni fa. E l'innovazione consiste in questo, consiste nell'adeguarsi a quelle che sono le nuove situazioni della realtà in cui si vive giornalmente. In questo le nuove generazioni possono essere utili? Sicuramente, no, possono, devono, quale a loro, devono essere utili le nuove generazioni che percepiscono più velocemente e meglio magari quelli che sono i cambiamenti in atto. Quello che uno si aspetta è che, sempre continuando nel segno della tradizione, non ci stanchiamo mai di dirlo, continuano a portare l'azienda ai successi che ha avuto fino ad oggi. Poi quelli che possono essere i particolari è difficile dire, perché ogni giorno si fa qualcosa, non è che le cose si fanno così, la mattina alla sera, ogni giorno si costruisce un qualcosa che magari dopo uno, due, tre anni, quattro anni diventano cose importanti, però le cose importanti si costruiscono piano piano, giornalmente. Quindi questo è il suo sguardo verso il futuro, anche in un campo in cui c'è una tradizione fortissima italiana come quella della pasta. Quindi che futuro ha la pasta? Io quello che mi posso augurare è che il futuro che abbia la pasta sia quello che ha avuto fino ad oggi. Se poi guardiamo oggi cosa è successo, la pasta era un alimento prettamente italiano, gli spaghetti si mangiavano in Italia e i nostri, quando parlavo che la De Cecco esportava nel 1894 negli Stati Uniti, perché? Non perché gli americani mangiavano pasta, perché i nostri immigrati che stavano negli Stati Uniti chiedevano la pasta, e da lì poi è nata la tradizione della pasta, la cultura della pasta. Oggi in America anche gli americani mangiano pasta, la pasta oggi si è diffusa in tutto il mondo, da alimento nazionale è diventato un alimento che oggi è sulle tavole del mondo intero. E quindi diciamo che quello che mi posso augurare è che questa evoluzione che c'è stata nei consumi, la dieta mediterranea, eccetera, eccetera, rimanga e la pasta si affermi sempre di più nel mondo. Oltretutto è anche un alimento sano ed economico. Economico, nonostante le polemiche sui prezzi aumentati, eccetera, eccetera, alla fine è un mezzo chilo di pasta che costa meno di un euro e che con mezzo chilo di pasta, 500 grammi, mangiano tranquillamente 5 persone, è un euro, non mi pare che sia una grossa spesa. Certo, e oltretutto diciamo è una spesa che noi facciamo tutti i giorni ed è una spesa che ci ricorda, in fondo nessuno ha mai brevettato la pasta, nessuno ha mai brevettato la pizza, ma in ogni caso sono italiane. Sono italiane, sì, sì. Questo non ce lo può togliere nessuno, o almeno che la pasta di qualità sia italiana. Questo sicuramente non ce lo toglie nessuno. La pasta si produce in tanti paesi del mondo, però sicuramente la pasta italiana qualitativamente è sicuramente la prima nel mondo. Che anche in America fanno la pizza, però trascordano la pizza che facciamo a Napoli con le ricette napoletane. C'è una particolarità che abbiamo noi che è inconfondibile, nessuno ce la può rubare. Nessuno ce la può rubare, e questo, guarda, il segreto è l'amore che noi abbiamo verso questo prodotto, perché gli altri è vero che mangiano la pasta, ma non gli altri paesi, l'americano, piuttosto il francese, il tedesco, il giapponese, eccetera, ma non hanno l'amore che abbiamo noi verso questo prodotto. Pasta De Cecco, tu che m'hai preso il cuore. Termina qui questa puntata di Voci d'Impresa. Abbiamo ascoltato la storia e i racconti del cavaliere del lavoro Filippo De Cecco, titolare dell'omonima azienda. Ci diamo appuntamento alla prossima puntata di Voci d'Impresa. È tutto e un cordiale saluto da Anna Marino.